Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Diciamo la verità, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, nel nostro paese non ci si annoia mai. Basta accendere la radio, basta leggere, così anche distrattamente, no? Passi davanti a un'edicola, un titolo di un giornale, e accendi la televisione, cioè, ogni giorno, com'è possibile questo cilindro infinito, un cilindro magico con conigli su conigli continuano a uscire? Uno dirà, certo, vabbè, un po' in tutto il mondo è così, per carità, adesso non parliamo addirittura dei paesi dove ogni giorno c'è una guerra diversa, però ecco, un paese nostro che anche se è in profonda crisi economico-finanziaria come tanti altri, potrebbe in fondo, se le persone fossero abbastanza per bene, vivere anche abbastanza bene, ma ogni volta qui sembra che abbiamo un tappeto che nasconde tante di quelle cose, quasi fa paura l'idea di sollevare solo un pelo di questo tappeto, perché sotto ogni pelo del tappeto c'è qualcosa che scaturisce fuori con mille altre robe dietro a concatenarsi. Comunque, insomma, avete capito, questo come sempre il nostro appuntamento, mio e vostro, con le notizie infinite della settimana. Siamo qui per commentarle insieme e tra poco vi presenterò anche l'opinionista estemporaneo di oggi, ma come sempre vi do all'inizio il numero verde che è completamente a vostra disposizione, soprattutto cercate di chiamare verso l'inizio e poi verso la fine, sapete che comincio a correre, sono una runner già, insomma, diciamo nella vita e anche radiofonicamente. 800 24 00 24, numero verde, quindi anche oltre ad essere gratuito, ecologico, evitate di disperdere le vostre energie, pensieri e tempo nell'ambiente, invece convogliateli qui a Non ci sono più le mezze stagioni. 800 24 00 24, infinite, dicevo, le notizie. Io come sempre, prima che qualcuno di voi mi dica ma ti sei dimenticato, io faccio un sunto estremo delle infinite migliaia, milioni di notizie della settimana, poi voi tirate fuori quella che ritenete per voi sia più importante, insomma. L'Istat, iniziamo con le buone notizie. L'Istat che dice che in Italia ci sono 8 milioni di poveri, quindi il 13,6% della popolazione, la disoccupazione giovanile al 29,1%, quindi praticamente al 30%, in aumento per il quarto anno consecutivo, e il reddito degli italiani è tornato indietro di 27 anni, siamo un po' ringiovaniti, diciamo. E poi c'è naturalmente il grido d'allarme di Confindustria per la crisi, che dice qui emergenza economica, sociale, servono delle scelte immediate, forti, coraggiose, e anche il Fondo Monetario Internazionale ci si mette a dire che il PIL dell'Italia è da rivedere al ribasso, cioè la ricchezza del paese. E poi, come non parlare del caso Monte dei Paschi di Siena, non ne avevamo abbastanza, che irrompe sulla campagna elettorale, quindi dà ulteriori argomenti, insomma sarebbe necessario parlare di altro nella campagna elettorale, invece vengono fuori, come vi dicevo, dal cilindro una serie di cose. E mentre all'inizio erano nel mirino Monti e PD, poi il professore Monti dice il PD c'entra, e però poi c'è anche Sergio Rizzo sul Corriere della Sera di ieri che dice nessuno può tirarsi fuori da questa storia. E sempre molto presente il problema degli esodati, che dopo, diciamo, un po' di fair play, non molto, tra Monti e Bersani si scagliano addosso. PD lo scaglia questa storia degli esodati contro il governo tecnico. Nel PDL invece c'è stato il caos liste pulite, anche su questo argomento liste pulite molti ascoltatrici e ascoltatori hanno espresso la loro opinione sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. E poi la storia dell'Ilva continua, molto difficile questa situazione, un ping pong tra governo, magistrati. E poi è stato trovato Fabio Riva, figlio del patron dell'Ilva, che se ne era scappato all'estero in libertà vigilata a Londra. È ritornato anche Fabrizio Corona dopo 4 giorni di latitanza, dice mi sono consegnato, in realtà pare che sentisse che erano praticamente dietro di lui e lui si è girato e ha detto ecco va bene sono qui, e ne parleremo se volete di questo eroe nazionale. E poi l'estero, in Egitto di nuovo scontri, morti, poi le elezioni in Israele anche la vittoria questa, all'estero, gli Open d'Australia, ma di due italiane, Sara Errani e Roberta Vinci, complimentiamoci veramente, hanno vinto la finale doppio di Open Australia. E poi gli Stati Uniti che hanno deciso di togliere il veto alle donne per combattere in prima linea. Altro argomento molto dibattuto sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, con vari pareri pro e contro, e poi se volete ne parleremo. E un'altra cosa importante che viene dagli Stati Uniti è che nel suo discorso di insediamento del secondo mandato, Obama ha usato per la prima volta la parola gay a una cerimonia di insediamento nella storia dei presidenti americani, dicendo: fratelli, sorelle, siamo tutti uguali. Ecco, diciamo, la parola d'ordine è uguaglianza per Obama. Mi pare che, insomma, di carne al fuoco ce ne sia moltissima, quindi vedete voi che cosa volete cucinare, ma come sempre chiediamoci che cos'è che anche questa settimana ci dimostra che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Fino a due giorni fa, diciamo, pensavamo che le nazioni del tartufo, quali sono le nazioni del tartufo? Francia e Italia, Italia e Francia, come anche del vino, come anche della cucina, invece no. Invece c'è qualcuno che ci insidia, piove sul bagnato, possiamo dire, è la Germania. Adesso anche in Germania si è scoperto che c'è un territorio, soprattutto nel sud-ovest della Germania, pieno zeppo di tartufi. E diciamo, la beffa qual è? Che per scoprire questa miniera di tartufi in Germania c'è voluta una cagnetta italiana, Diana, addestrata appunto in Italia per scoprire i tartufi. Adesso non ci abbiamo la Germania, naturalmente, questa è una battuta, ma è una notizia comunque importante della settimana. I tartufi portano anche ricchezza, oltre che golosità. Ma a questo punto, signore e signori, andiamo subito a capire chi è l'opinionista estemporaneo di oggi. Caro Michele Ainis. Presente, eccomi. Michele, costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3, ha scritto un sacco di saggi. Michele, ne stai scrivendo qualcun altro? No, mi sono messo a riposo per un po', perché insomma capisco, quella di scrivere poi è una forma di nevrosi, adesso mi sto un po' curando. Un po' calmando. A proposito di cure, lo volevo dire a te, lo volevo dire anche a Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Ogni poco il Corriere della Sera pubblica le sue immagini di lui, tutto tirato, con tutto l'abbigliamento tecnico, che corre con le guardie del corpo in centro a Milano. Ma Sallusti, io gli voglio dire, fa male correre in centro a Milano, ma perché? Fossimo, che so, a Siena, o da un'altra parte, che tutto sali e scendi. Ci sono i parchi a Milano, c'è la zona est, il Parco Lambro, c'è il Parco Sud a Sud, il Parco Nord a Nord, c'è il Parco delle Cave a Ovest, c'è anche il Castello Sforzesco. Perché devi correre proprio in centro, a respirarti tutto lo smog? E quindi approfitto per lanciare questo, c'è la mia collega Nicoletta Carbone che mi dà sempre dei consigli sulla salute, io non mi sto curando questa bronchite, diciamo, da un mese, ha scritto un libro, Guida al benessere, 99 consigli per vivere al meglio. Lo consiglio anche a te, Michele, se hai questa nevrosi, non so se per la scrittura c'è qualche terapia, comunque dedicati a te stesso, ecco, a qualche altro hobby. Ma secondo te, Monti parla di tappo, secondo te, no? Quando dice questa improvvisa apertura di ieri, prima sembrava, allora si parla di accordi segreti con il PD per dopo le elezioni, poi ieri improvvisamente aperto al PDL, però dice, attenzione, ma salti il tappo di Berlusconi, cioè secondo te intendiamo, è un doppio senso questo, intendeva... Nel senso che l'ex Presidente del Consiglio non è particolarmente alto. Come la statura accademica di Brunet, secondo te intendeva una roba... Ma io non so, dunque poco fa tu parlavi dei tartufi, il nostro primato insidiato dai tedeschi, io non credo ci riusciranno perché diciamo, i tartufi stanno qui e c'è un modo tartufesco. Effettivamente. Anche della politica. Io credo che la vera notizia sarebbe se poi adesso tutti si rimpallano le responsabilità dei disastri che abbiamo sul gruppone. Allora, se qualcuno dicesse, questa sarebbe la notizia non della settimana ma dell'anno, ho delle responsabilità, il mio partito ha commesso degli errori, ma non lo dice nessuno, o il mio governo ha commesso degli errori nel caso di Monti che si candida adesso come forza, insomma, come leader di una forza politica. La colpa è sempre dell'altro. insomma, sembra quando si è piccoli, no? Non so se tra fratelli, sorelle, quando si mette in disordine, non si combina qualcosa. È stato lui, è stato lei, uguale. Quando si cresce, uguale. In politica, poi, una specie di parco, come possiamo definirlo? Ma sarebbe anche invece una dimostrazione di serietà, cioè partire dagli errori, perché se ogni partito che ti chiede il voto si autorappresenta come un circolo di angeli e santi, e sappiamo bene che non è così, e questo rende meno credibile tutta l'offerta politica. Dopodiché poi ci sono anche una serie di temi assolutamente oscurati, per esempio rispetto alla cultura, alla ricerca, adesso non per parlare di cose, io faccio il professore universitario, quindi è un campo così che mi appartiene. È molto vicino, certo. Senti, ma a proposito di responsabilità, di chi si candida o non si candida, Renzi ha detto 2 giorni fa in una trasmissione sulla 7, Monti mi ha deluso, perché aveva promesso non mi candido, non mi candiderò, eccetera. E poi invece era uno super partis, adesso dice non riesco più a vederlo come uno. A te ti ha deluso Monti? È una verità storica che il presidente Monti aveva detto che non sarebbe stato interessato a un futuro politico, poi ha cambiato idea, lui lo ha spiegato dicendo che... Anche lui ha parlato di sacrificio, tutti che parlano di sacrifici, comunque insomma... Sì. L'ascesa al cielo della politica può essere anche vissuta come un sacrificio. Però certamente c'è stata una correzione di rotta. Le giustificazioni date dal Presidente del Consiglio sono state che altrimenti il lavoro fatto dal governo sarebbe stato depauperato, disperso, se non rovesciato. Però certamente questo è accaduto. C'è un elemento, io credo, ma insomma non sono il solo a dirlo, di contraddizione nel presentare un'offerta politica nuova con un sodalizio, però con partiti che sono dei vecchi partiti o con leader politici. Il caso di Casini è alla Camera dal 1983. Adesso ambirebbe alla presidenza del Senato, leggevo così le analisi un po' di retroscena, ma poi vedremo. Eccoci qua, Roberto Giordano, sempre con voi, siamo insieme fino a poco prima delle 15, vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, con i vostri commenti, le vostre opinioni, mi guardo costantemente, e c'è opinionista estemporaneo oggi Michele Ainis, che è famoso costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera, docente universitario, e vi dico anche naturalmente che di argomenti ce ne sono moltissimi, anche per esempio gli F-35, Bersani dopo effettivamente aver votato anche sugli F-35 durante il governo Monti, però adesso dice qui bisogna diminuirli con i costi enormi che costituiscono, mi sembra che la spesa totale sia di 12 miliardi, poi dopo riandremo a vedere i dati se c'è tempo. Dicevo, allora, Vittoria da Milano. Buongiorno, complimenti per la sua trasmissione che è sempre interessante. Grazie Vittoria. Allora, io volevo suggerire a tutti i big del Monte dei Paschi di Siena, a partire dagli amministratori, dai presidenti, amministratori delegati, direttori generali e così via, compresa la fondazione, invece di tagliare le sovvenzioni al Palio di Siena, al basket, alla squadra di calcio, sarebbe bene che dessero i loro bonus annuali, che oltre allo stipendio molto ricco che noi non ci sogniamo neanche di vedere nel ciclo della nostra vita, potrebbero darli come sovvenzione a queste 3 categorie, a cui hanno tagliato subito le loro donazioni. Ecco. E ce ne saranno di soldi, anche se ieri diceva Profumo, che è l'attuale presidente, che non ci dovrebbero essere problemi per i correntisti. Staremo a vedere, Vittoria. Comunque il Corriere Cartaceo oggi, come primo titolo, ha si indaga sui premi ai manager. Ecco. Non parliamo poi, non voglio neanche sollevare il famoso tappeto per vedere cosa c'è sotto. Mi limito a questo. Qui è tutto un tappeto. L'Italia è il paese dei tappeti, mica la Persia di una volta. Vittoria, ti ringrazio. Tutto qua, grazie, arrivederci. Grazie, Vittoria. Michele, questa storia del Monte dei Paschi di Siena, veramente uno non ne può più, anche inglobare, per esempio, da parte di un giornalista o di una giornalista o di una conduttrice che si occupa di tutte le notizie della settimana, durante la settimana, oltre a fare molte altre cose, diventa veramente faticoso, perché tu speri martedì, mercoledì, le cose sono finite lì, invece ne vengono fuori continuamente. Vedo un editoriale di Sergio Rizzo di ieri sera, che avevo già citato all'inizio, no? Che inizia dicendo: nessuno può chiamarsi fuori dalla vicenda che coinvolge il Monte dei Paschi di Siena, non il governo, e ciò vale tanto per quello passato quanto per quello ancora in carica, non la Consob, che è appunto l'organo di controllo delle società quotate in borsa, dice non la Banca d'Italia, che a sua volta doveva vigilare, non il sistema bancario, non tantomeno i politici, un po' tutti, insomma, fa un lungo editoriale piuttosto articolato su questa cosa. Fra l'altro, sta storia dei derivati, che è una cosa complicatissima, fino a qualche tempo fa almeno parlavamo dei derivati del latte, dei derivati al massimo del petrolio, questi derivati diventano veramente una questione di acrobazia finanziaria che manco si capisce. Che pensi di questa vicenda, Michele? Penso che anziché brevettare il redditometro sarebbe più utile un debitometro, perché qui i debiti effettivamente, quelli delle banche eccetera, sono chilometrici. Ci ho detto, questa vicenda che cosa ci racconta? Intanto che c'è un qualcosa che non funziona nel sistema dei controlli affidati ad autorità indipendenti, che spesso sono poco dipendenti dalla politica, perché se il controllato, che è la politica, nomina il proprio controllore, è difficile, no? Che il controllore poi stili un verbale e faccia una multa. Questo da un lato. Dall'altro lato c'è da decidere un cordone ombelicale tra la politica e le banche, gli affari. Nel caso del Monte dei Paschi di Siena la politica è quella cittadina, insomma, attraverso i politici, poi c'è il controllo della fondazione, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno in generale di separare ciò che è pubblico da ciò che è privato. Ne abbiamo bisogno, per esempio, per il rubinetto da cui sgorgano aiuti di Stato alle imprese private, che diventano in questo modo in realtà parastatali. Ne abbiamo bisogno per emendare alcune professioni, per carità, antiche e nobili, il farmacista, il notaio, che però hanno uno status di funzione pubblica, e quindi tu hai i redditi del professionista e i vantaggi del pubblico ufficiale, e ne abbiamo bisogno per quanto riguarda i partiti, che sono associazioni private che tuttavia, insomma, e rischiano di diventare comitati d'affari a volte, diciamo. Sentiamo, c'è bisogno di separare. Ecco, al numero verde 800 24 00 24 c'è Doriano da Pistoia. Mentre continua ad arrivare centinaia di telefonate, già la nostra Nadia Zammitti, insomma, che è già in difficoltà, quindi cominciamo a far passare gli ascoltatori. Doriano all'800 24 00 24. Sì, buonasera. Complimenti per la trasmissione, conduci veramente bene, mi piace. Modestamente, la seguo tutti i sabati, quando posso. Ecco. No, quando non puoi, se puoi, Doriano, sì, potendo. Magari la registro. In podcast, la puoi sentire in podcast, sai, sì, dal lunedì, io, sul sito del... Sì. Col cellulare, sì, che vabbè, vediamo. Tecnologico. Va bene, prego. Senta, sì. No, io volevo, tipo, volevo dire una cosa. Io sono, diciamo, di sinistra, per capirsi, sono del PD, vengo dalla DC. A parte questo, sono una persona, io credo, libero. Ecco, una cosa io dico, questo è vero che spesso si fa a rimbalzo, no? Come bambini, no, non, io non ne sapevo niente, no? Una cosa io pretendo e vedo che il PD fa: non si attacca a giudici, avanti magistratura, non è una orologeria, no? Avrebbero detto, no, bene, anche tutte le elezioni, io voglio sapere, voglio capire, e noi cittadini si deve pretendere, specialmente in casa nostra, no? Sempre dipende, e vedo che Bersani, Renzi, tutto il resto, non attaccano magistratura, e questo mi fa piacere, e questo ci tengo, altrimenti lavorerei naturalmente in quello che potrei politicamente al mio partito, perché sono anche tesserato, e fare un'attività interna, perché non si vuole il leader, si vuole qualcuno che ci salvi, no? Io ho 64 anni, vengo da DC militante, poi passare nel Partito Comunista, cioè si lavorava di base, era bello, si faceva delle due magari al partito e poi la mattina 7:30 a lavorare, ma eravamo sovrani e io mi sento sovrano e voglio essere sovrano, nel senso con rispetto, con umiltà, come c'è Don Milani, ma ci voglio essere. La democrazia è nostra e si va troppo, si vuole qualcuno che ci salvi. Ci si salva tutti insieme, ognuno nell'ambito con rispetto del proprio partito, perché io rispetto tutti, però votare e basta ogni 5 anni fa poco, naturalmente uno poi i tempi che ha, il giorno per giorno, io vendo panini ad esempio, dialogo con i miei clienti, prima ero un artigiano metalmeccanico. Vendi panini? Sì, io ero un artigiano metalmeccanico per 6 anni e presi spazio Radio Monsummano, Montecatini, chiudevo l'officina e andavo a fare Società Oggi, misi in piedi una lega lavorante al domicilio, chiamavo l'amico prete. Ho capito, diciamo una vita fatta di partecipazione e inviti anche gli altri naturalmente a partecipare, giustamente tu dici se vogliono il cambiamento, no? Come diceva Gandhi, a livelli molto alti, siate voi il cambiamento che volete vedere nel mondo. Ti ringrazio Doriano da Pistoia e c'è Luciano da Verona. Luciano. Buongiorno e grazie dell'ospitalità. Poche cose telegrafiche. Sì. Prima, perché è scoppiato in questi giorni lo scandalo Montepaschi? Ve lo dico io, perché pochi giorni fa è stato pagato il bonus annuale ai manager, quindi una volta qualcuno si è incacchiato, dici? Una volta il bonus ce lo siamo presi, a sto punto potete fare tutto il casino che volete, l'anno prossimo non lo prenderete, vabbè non lo prenderemo, dici. Per il momento ci siamo presi questo. Seconda, ma la Banca d'Italia che ha detto ci hanno nascosto le carte, non abbiamo potuto vigilare, ma davvero nel 2013 con l'informatizzazione delle banche noi dobbiamo credere che le cose si vedano sulle carte? Ma questo è incredibile in un paese civile. Terza ed ultima cosa, sì, e concludo. Il PD si è tirato fuori, noi non c'entriamo niente, facciamo la politica, non facciamo le banche. Sarebbe il caso che gli ascoltatori sapessero che il Montepaschi è controllato dalla fondazione, nella fondazione ci sono 16 membri. Di cui la gran parte nominati. No, la gran parte, 13, 13. Diciamo i numeri, su 16, 13 di nomina diretta significa del comune, Bersani, della provincia e quindi del partito. Bersani prende un foglio di carta e scrive Gennarino Esposito da domani è nel consiglio della fondazione, Pasqualino Sette Bellezze da domani, lo dice Bersani e ci mette una firma sotto. Non viene Santa Agnese a dire chi saranno, è chiaro, quindi non si tirassero fuori per cortesia. Grazie Luciano, sei stato molto chiaro e guardo adesso un'agenzia dell'ANSA di questi istanti a proposito della Siria, no, che continua questo massacro della popolazione, ogni tanto mi chiedo se resterà qualcuno vivo in Siria e finora diciamo la comunità internazionale ha tentato di fare così delle cose un po' impacciate di tentativi di diplomazia tutti falliti e questa è la prima volta in cui si dice che ci sono, cioè una prima, le prime 6 batterie di missili Patriot schierati alla frontiera turca con la Siria da parte della NATO e questa prima serie di batterie sarebbe operativa e posta sotto il comando della NATO, lo comunica l'Alleanza Atlantica in un comunicato, quindi questa è effettivamente una notizia che piomba adesso sul presente. Per spostarci brevemente, sai che mi piace saltare di qua e di là, Michele Ainis, su altre questioni apparentemente più leggere, ma che ci dicono anche chi siamo, no? La storia di Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, che io direi il bullo smandrappato proprio, nel senso proprio tapino, qualcuno direbbe in gergo, anche se è un termine che non mi piace, sfigato, perché insomma, no? E c'è per esempio Gabriele Romagnoli su Repubblica che dice soltanto nel paese di Schettino uno come Corona poteva assurgere a simbolo del male mentre incarna faticosamente il così così, quello che tira a campare. Due cose mi hanno colpito di questa vicenda. Uno, lui che la cosa che subito ha detto attenzione a tutti i giornalisti, che chi si permette di dire che ho pianto quando mi hanno preso lo querelo. È possibile che sia questa la cosa più importante che gli sta a cuore? Cioè, è proprio un bulo da 3 soldi, insomma. Come si fa a dire non piano querelo? Non qualcuno che dice sei un assassino. No, se ho pianto io lo querelo. E poi un'altra cosa che mi chiedo a proposito di giustizia, visto che tu te ne intendi, Michele, Di nuovo ritorno sulla questione degli stupri, che raramente qualcuno si fa qualche anno di carcere. L'ultimo a Bergamo, questa ragazza incinta stuprata da quest'uomo che adesso ha gli arresti domiciliari, quando ha tutte le telecamere, tutto, ha ripreso, no, lui e quello che stava facendo, agli arresti domiciliari. È possibile che un tapino come Corona, benché sia un truffatore, un truffaldino, un ricattatore, uno che ha vissuto ricattando la gente che ha fotografato in mutande, veramente misero, però è possibile che si debba fare 5 anni, forse 7 addirittura? Non è un po' troppo? Ma noi abbiamo una questione giustizia, e anche di quella si parla assai poco in campagna elettorale, si ascoltano poche ricette, soluzioni, rimedi, è come se ci fossimo rassegnati, no? Ad avere dei processi che durano per tempi biblici e poi volano sempre gli stracci. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, c'è il primo titolo del Corriere Online che dice: Italia triste primato di prescrizioni nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, no? Poi sono talmente lunghi questi processi che poi vanno in prescrizione. Mi pare l'ultimo dato è 130.000, media, 130.000 processi prescritti, significa che in 130.000 casi non c'è giustizia, qualcuno ha subito un torto ma nessuno ne risponde, questa è una vergogna. Perché accade questo? Ieri il procuratore generale della Cassazione, il primo presidente della Cassazione, diceva: abbiamo in circolo 35.000 fattispecie di reato. Allora, questa cosa mi ha un po' colpito, perché io in un libro del 97, che uscì dalla Terza, si chiamava Legge Oscura, misi nero su bianco questa stima che, ricordo, mi avevano detto così a voce alcuni amici, colleghi penalisti, mi hanno detto, 15 anni fa, sai che forse sono questi, è una tombola. Io poi l'ho scritto tante volte, adesso non so come, perché lui stesso, Lupo, non cita una fonte non ufficiale, magari sarà pure colpa mia, però se non sono 35.000 e sono invece 25.000, comunque sono troppi. Certo. Se sono troppi i reati, questo significa che chi deve perseguirli, altro che obbligatorietà dell'azione penale, deve per forza selezionare, e quindi già qui si crea un imbuto che bisticcia con il principio di eguaglianza di cui è figlia l'obbligatorietà dell'azione penale. Inoltre, quelli che riesci, su cui riesci ad attivarti, poi i processi non li completi perché scatta la prescrizione, e questa che cos'è? È una giustizia dei forti. Se tu hai un buon avvocato che te la fa tirare per le lunghe il tuo processo, poi ti salvi con la prescrizione, altrimenti capitato qualche tempo fa che un barbone rovistava in dei cassonetti delle immondizie, è stato denunciato e processato per furto di cosa pubblica. Quindi, allora, se succede questo, c'è veramente un problema. Veramente un grossissimo problema. 800 24 0024 il numero verde per le vostre telefonate, sempre Roberta Giordano con voi, opinionista estemporaneo di oggi, che ci aiuta a commentare le notizie della settimana, avere un suo punto di vista. Michele Ainis, costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3. Sentirei subito Vincenzo da Torino. Vincenzo. Sì, buonasera. Abbiamo la tosse? Un po', strascichi influenzali. Acciacchi dell'inverno, che dobbiamo fare? Esatto. Inverno fa freddo, d'estate fa caldo. Sì. Grazie per l'opportunità. Grazie a te. Volevo solo dirle, fare una banale riflessione di questi tempi. Abbiamo l'obbligo della tracciabilità dei 1.000 euro, eppure pare che su una quisquiglia di 2 miliardi e passa di euro della Montepaschi e una cedola banale di 100 e passa milioni all'anno, nessuno sappia da che parte vengano, dove vadano. Tracciabilità c'è solo per noi, popolo bue che deve lavorare e pagare ed essere maledetto perché lavora e mantiene certi signori. Grazie. Grazie a te, Vincenzo. Come vuoi commentare questa telefonata amara, Michele Ainis, di Vincenzo? Certamente contiene una parte di verità, e certamente c'è una esasperazione in circolo che credo la politica da ultimo stia un po' sottovalutando, nel senso che in qualche modo è autoreferenziale questa campagna elettorale, il tema degli astenuti. Insomma, ricordiamoci che le ultime elezioni che sono svolte in Sicilia, il 52-53% dei siciliani non è andato a votare. Adesso le stime circa la partecipazione al voto sono più incoraggianti, però io voglio vederla tutta questa questione, non si è affatto spenta. La fiammata di il sentimento, è un risentimento, non è un sentimento, è un risentimento che investe la politica. Staremo a vedere. Farebbe molto male la politica, ne parlo in generale, con tutti i limiti che ha un discorso generalista, ma insomma farebbe molto male a considerare passata la nottata. Ci siamo ancora completamente dentro. Sì. Intanto vedo che in notizie anche di oggi della Regione Lombardia, Formigoni indagato per i soldi di Don Verzé, il fondatore del San Raffaele, ipotesi di corruzione nell'inchiesta. Prima di sentire Silvia da Verona, mi sembra che Pietro La Corte dica che siamo riusciti a instaurare il collegamento satellitare con Marte. Beh. Riflessioni da Marte. Quanto trambusto si è visto quassù da Marte anche questa settimana, osservando il globo terracchio e in specie, come sempre, lo sapete, l'italico paesello. Quello, il paesello con 8 milioni di poveri e con un consistente numero di impresentabili, incandidabili, irricevibili, irrimediabili, irresponsabili, irrintracciabili, se non fosse, in un certo caso, per l'antifurto super tecnologico montato su una Spingy Spider formato 500. Ma bisogna dire anche che è un paese dove i politici, al di là delle facili critiche nei loro confronti, mantengono davvero, in alcuni casi, le promesse che fanno. Un fulgido esempio è quello dato da un candidato di Ostia che rivendica orgoglioso, facendo stampare e affiggere centinaia di manifesti per ricordarlo, rivendica che dopo 3 anni e 3 di dure lotte è finalmente riuscito a far realizzare ad Ostia, per i suoi concittadini, ben 5.000 loculi, uno insomma che mantiene gli impegni e soprattutto che è capace, diciamo, di guardare oltre la vita. E se non si ha una sistemazione stabile da vivi, almeno la si ha da morti. Ma i politici italiani, si è scoperto, hanno anche una qualità straordinaria. Si potrebbe dire, a ben vedere, miracolosa. Hanno, sentite bene, il dono dell'ubiquità. Sì, per una qualità più unica che rara, quindi, li troverete candidati un po' dappertutto, in più regioni, da nord a sud, da est a ovest, in un trionfo di iperattivismo all'ennesima potenza, come fossero loro stessi, praticamente, a incarnare la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco perché molti di loro, scendendo o salendo in politica, dicono che fanno un sacrificio. E del resto, provate voi a essere contemporaneamente presenti e attivi in Lombardia come in Sicilia, nel Lazio come nelle Marche, come in Campania, e senza lamentarsi mai per questo. Insomma, diciamolo, siate orgogliosi di questi fenomeni. Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata, e vado verso la cabina, volutamente disinvolto per non tradire le emozioni, e faccio un segno sul mio segno, come son giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. E Torniamo subito con i piedi per terra, caro Michele Ainis. Tra l'altro, sei ispirata alla Marziana anche a un tuo editoriale di qualche giorno fa, no? Questa storia che veramente. Cioè, si fanno in mille, non in quattro, i candidati. Sì, proprio un sacrificio affettivo. Sì. No, sono stato sommesso da mail dopo quell'editoriale, perché veramente in questo caso non più uno scandalo ma una schifezza, cioè il fatto che l'eletto venga scelto non dall'elettore ma dall'eletto medesimo, perché dunque raccontiamo a chi ci ascolta come funziona questo giochino che è reso possibile dal Porcellum, tu puoi candidarti in più circoscrizioni. A quel punto, siccome però dovrai nel momento in cui vieni eletto in più circoscrizioni sceglierne una, non puoi occupare 10 poltrone in Parlamento, anche perché i tuoi glutei non si moltiplicano, e allora quando scegli automaticamente decidi la sorte di chi ti viene dopo nella lista. La tua scelta a Palermo anziché a Milano decide la promozione di Tizio anziché di Caio. Ora, questo è veramente uno scandalo, perché noi elettori siamo costretti a votare in blocco una lista che non decidiamo, sono le liste bloccate, ma non sappiamo nemmeno se quella lista è fedele, non sappiamo cioè se i nomi che troviamo in quell'elenco del telefono saranno quelli che la mia circoscrizione esprime o invece no, perché c'è il tizio che appunto è candidato in più collegi. Ora, non lo hanno fatto tutti i partiti, per esempio va detto subito, molti me lo hanno rimproverato, il Movimento 5 Stelle non l'ha fatto, però un po' tutti gli altri sì, o quasi tutti gli altri sì, quindi capita che Casini sia candidato in 5 circoscrizioni, Bersani in 3, Ingroia dappertutto, Berlusconi idem al Senato. Ma questo vale anche non soltanto per i leader, ma anche per, io dicevo, i sottoleader. I sottufficiali, insomma. Ecco. Senti, Michele, poi fra l'altro ne approfitto per dirvi che ho pensato di farvi una cosa, insomma, piacevole e utile. Per un mese adesso sospenderò con dispiacere il prete rivoluzionario Don Severino e la nostra linguista Valeria Della Valle, perché mi piacerebbe fare un piccolo appuntamento verso la fine con un esperto di diritto costituzionale, come anche il nostro Michele Ainis, per parlare ogni volta brevemente di un pezzettino del nostro sistema elettorale così complesso, così arzigogolato e così poco trasparente. Prima di andare sulle altre notizie, vorrei sentire Silvia da Verona all'800240024. Silvia. Buongiorno, sono da Mestre, non da Verona. Da Mestre, giustamente. Sì, siamo sì. Sempre in Veneto, ma da Mestre. Bene. Allora, no, io volevo intervenire, io faccio l'avvocato e faccio anche l'avvocato penalista, volevo intervenire sul discorso della prescrizione di cui parlava Michele Ainis. Sarebbe per esempio da considerare la possibilità non tanto e solo di allungare i termini della prescrizione, ma ci sono paesi europei, se non mi sbaglio uno di questi è la Francia, che prevede la sospensione della prescrizione del reato mentre dura il processo penale. Ora, se questo fosse prevedibile nel nostro paese, per esempio, si ribalterebbero le situazioni per cui chi è imputato nel processo, che naturalmente ha il diritto di avere una giustizia veloce, oltre che averla la parte civile, avrebbe un interesse maggiore per far sì che questa giustizia arrivi nei tempi, visto che la prescrizione è sospesa, e che decida se è innocente o se è colpevole. E naturalmente poi questa possibilità di questo istituto potrebbe collegarsi al fatto che, come diceva Ainis, sono previste 35.000 tipologie di reato. Benissimo, cominciamo a pensare che ci sono tipologie di reato che possono essere depenalizzate e che possono prevedere sanzioni di natura amministrativa. Come in caso, Silvia, siccome devo sintetizzare, quello di Corona per esempio? Potrebbero metterlo in mutande chiedendo i parecchi soldi senza metterlo 5 anni o 7 anni in prigione? No, allora su questo io l'ho ascoltata prima e lei aveva fatto dei paragoni che però non sono possibili. Lei aveva parlato dell'ipotesi dello stupratore che era stato posto agli arresti domiciliari. Ora, non si possono fare questi paragoni perché la condanna di Corona è definitiva. L'arresto, ossia la misura cautelare, è una appunto una misura cautelare che interviene prima della condanna. Certo, però diciamo in termini tecnici siamo d'accordo, però uno che è preso praticamente in flagranza di reato e con quel tipo di reato mi sembra insomma che la giustizia abbia dei pesi e delle misure. Comunque non voglio entrare nei dettagli tecnici, Silvia, ti ringrazio solo perché siamo in ritardo, se no se chiami la prossima volta volentieri. Elena da Brescia, riesci, ti prego, a essere molto sintetica, Elena, scusa. Ci provo, sì. No, io sono un medico e sì. Volevo solo, sento purtroppo un eco, e volevo solo dire relativamente al trasferimento, mi pare che si parlasse di Alberto Bevilacqua ricoverato. Sì. Ecco, mi sembra molto strano, probabilmente la notizia è incompleta, perché il medico ha facoltà di decidere di trasferire chi vuole. Il problema è quando la persona è incapace di intendere di volere, ma in questo caso non è assolutamente il parente che decide, ma eventualmente è un amministratore di sostegno nominato da un giudice. Guarda, adesso tra l'altro sto leggendo proprio in diretta un'agenzia che è arrivata, che dice: la direzione della casa di cura Villa Mafalda, si legge in una nota, dichiara che il professor Bevilacqua è ricoverato presso la nostra struttura dall'ottobre 2012, dove è giunto in condizioni disperate solo grazie alla perizia di sanitaria e l'adeguatezza della struttura. Il paziente è ancora vivo, stiamo seguendo le terapie in accordo con la sorella Anna Bevilacqua e con la signora Macaluso, che deve essere compagna, addirittura il consulente medico di quest'ultima, e quindi stiamo seguendo il protocollo. Elena, ti ringrazio. Adesso abbiamo questo appuntamento nuovo con il nostro Giuseppe Busia, esperto di diritto costituzionale. Giuseppe, in questi tre minuti, quale parte affrontiamo di questo sistema elettorale molto porcelloso, diciamo, oltre che complicato? No, possiamo partire da quello a cui accennavate anche con Michele Ainis, sì. Il problema delle liste e quindi che cosa effettivamente il cittadino è chiamato a votare. Perché si chiamano liste bloccate, per esempio, no? Noi votiamo con un sistema di liste bloccate, il che vuol dire che, a differenza di cosa accadeva in un passato remoto, i cittadini si trovano di fronte a una lunga lista di nomi nella quale però non possono scegliere i candidati sono già scelti dai partiti che li hanno inseriti nella lista, e questo spiega un po' il dibattito che c'è stato nei giorni scorsi e fino all'ultimo. Proprio oggi si chiudevano per le regionali, non per le politiche, la presentazione delle liste e delle candidature. Spiega questo perché in realtà non si stavano scegliendo i candidati, ma per i partiti più grossi di fatto si stavano già scegliendo deputati e senatori, proprio perché il cittadino non potrà, una volta scelto il partito, non potrà dire: io preferisco il numero 3, il numero 4, il numero 5 della lista, visto il 26, ma gli eletti, se eletti, saranno eletti tutti nell'ordine di presentazione. Cosa significa? Due problemi. Uno, e c'è stata un po' di polemica, uno quello che accennava Michele Ainis, appunto, il fatto che alcuni si presentano in tante, che ingannano con la loro popolarità gli elettori e in realtà scelgono poi chi viene sotto nella lista, ne avete già parlato. Un altro problema è un po' quello dei catapultati. Dalle segreterie dei partiti si impongono alcuni candidati e un pacchetto prendere o lasciare, per cui se si vuole eleggere il quarto della lista bisogna prendersi i primi tre, e quindi il voto viene è meno libero di quanto sarebbe in altri contesti. Quali potrebbero essere? Quindi questo è il nostro sistema, è probabilmente il difetto principale del sistema che abbiamo, quello di ridurre la sovranità dei cittadini e di avere soprattutto dei parlamentari che sono più nominati che eletti, e quindi sono per questo anche più deboli, più soggetti alla direzione delle segreterie dei partiti, meno indipendenti, e questo si riflette sul Parlamento, che è un po' più debole. Allora si propone da più parti, cerchiamo di inserire dei correttivi, qualcuno ci ha tentato, volevano tentarci due maggiori schieramenti nel fare le primarie, cioè svolgere prima delle elezioni in cui almeno una parte dei candidati siano scelti dagli iscritti o dai simpatizzanti del partito. Qualcun altro le voleva fare, non l'ha fatto, speriamo che capiti, e speriamo altrimenti che una qualche sovranità si restituisca ai cittadini. Attenzione però che anche il sistema che viene evocato a volte, quello delle preferenze, ha dei difetti, perché è l'esperienza del sistema che c'era prima del Mattarellum. Questo sarebbe il Porcellum, prima c'era il Mattarellum, prima c'era un sistema proporzionale in cui potevamo esprimere le preferenze, però queste avevano fatto aumentare troppo i costi della campagna elettorale, perché ciascun candidato per essere eletto doveva spendere tanti soldi per farsi conoscere e faceva un pochino campagna elettorale contro i colleghi del partito. Ecco, magari Giuseppe Busiella, la prossima volta anche questa differenza, no, con le preferenze, che tanti ancora non capiscono, qualcuno pensa che sia in un modo o in un altro, per capire un po' la differenza con l'attuale sistema elettorale. Giuseppe Busia, per il momento grazie. Grazie. Buon fine settimana, ciao Giuseppe. Michele Ainis, non ci si può sorprendere tra la storia, liste pulite di questi giorni, sulla quale si sono molto espressi gli ascoltatori e le ascoltatrici sulla pagina Facebook della trasmissione, e che in un paese come questo e anche con il nostro sistema elettorale assurga eroe nazionale, no? Uno come Corona, come dicevamo prima, al di là che io ritenga che la sua condanna sia un po' troppo pesante. Che dici? Ma su Corona io non ho molto da dire, se non che la campagna di persecuzione mediatica a cui lui, come altri prima di lui, insomma, viene stato sottoposto, poi alla fine te lo rende più simpatico, anche se magari non lo merita. Forse all'inizio gli faceva pure piacere di essere un po' sempre sulle copertine, poi dopo quelle cose è cominciato ad andare un po' peggio. Senti, invece sulle donne e sulle soldate negli Stati Uniti, questo permesso di combattere in prima linea, al di là che io ho detto lo fanno già dalla Seconda Guerra Mondiale molte in via non ufficiale, io ritengo, ecco, leggo questa l'opinione di Massimo Landi sulla pagina Facebook di Non ci sono mezze stagioni, io vedo come un segno di rispetto verso le donne, chi diventa soldato lo fa per combattere, se no è come fare il corso di guidatore di autobus e poi mettersi a fare il controllore dei biglietti. Io sono d'accordo, tu? Ma io direi sarebbe meglio che non ci fosse la guerra, però se uno decide di farlo, diciamo, siamo attenti a declinare l'eguaglianza in termini così perentori, cioè non è detto che se in alcune attività, mestieri, professioni le donne siano meno rappresentate, questo dipenda da una discriminazione e non piuttosto da una scelta. No, ma io dico, se le donne scelgono di farlo, chi può decidere al posto loro? Possono e devono farlo. Naturalmente. Sì. Michele, ci dobbiamo salutare, andiamo velocissimi. Grazie a Michele Ainis, a voi che siete stati d'ascolto, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.